sanu na suna shihuini di mana tina palati rati si celusia ti linga genda vizenda di uji ni gatenia Celu sanuna Suna shihuini ni manatina Palati tua Rati si celusia Tilinga genda vizenda di uji Nigatenia Kichila Judi via Pafia Kasikaruni Panuneuna Kadika Kinye via Chakiba Namabijela Tugatenia Kichila Judi via Pafia Kasikaruni Panuneuna Mabijela tugatenia Kirabiluse kenda nana Sanuna Shuna shihuini ni manatina Palati tua Rati si celusia Tilinga genda vizenda di uji Nigatenia Chila Judi via Pafia Kasi Karuni Panuneuna Kadika Kinye via Chagibanda Mabijela Tugatenia Chila Judi via Pafia Kasi Karuni Panuneuna Namabijela Tugatenia Mirabilusha